se il rogo mai non s'accede, se il rogo mai, mai. Ma chiedi amanti, sono amanti, sono amanti, troverai che ne porti.